bersaglio tu per me. Cabina verde, mare blu, in piena luce c'eri tu. Cercavi di scoprire se di Marche il mio bikini è. Ma chi è? Cosa fa? Ma guarda un po' quel tipo là. Ma chi è? Cosa fa? Che bel tipo quella là. Fatti niente.